ma che brutto. Ma cosa? A me piaceva tantissimo questa canzone da piccola. Catenelle. Questa versione è brutta. E quindi? E quindi buonasera quindi... a tutti. Ciao. Ciao Reve. Ciao. Ciao Palmi. Ciao ciao ciao Modi, ciao Reve. Buonasera a tutti quanti dagli studios di Frittola, una nuova puntata di Smarmellanza Special. Sì. Puntata. Sì, Smarmellanza Special, ormai non più tanto special perché finalmente stiamo tornando alla normalità. Siamo in fase 3. Siamo in fase porco. Aspettando la fase 4. Tu c'hai un eco della Madonna, Palmi. Si sente tutto. È la sua voce profonda. Comunque anche io mi sento diversa dal solito, oggi. Chissà perché si sente tutto. Chissà perché. Comunque benvenute, benvenuti su Radio Wombat. Siete ritornate sulle dirette, su queste... Sì, siamo in diretta da Frittole stasera, come ogni venerdì dalla quarantena. Se non ve ne eravate accorti, siete qua, siete arrivati. Oggi è una nuova puntata. Ebbene sì. Ma neanche un tappetino ci metti, Reves. Eccolo. Detto fatto. Va bene, quindi stasera avremo un tema importante, da ciò che mi è parso di capire dalle comunicazioni e retroscena della regia, se non sbaglio. Sì, abbiamo una puntata a tema stasera. Okay. Dopo il gran cazzeggio della scorsa settimana, torniamo un po' più serie e facciamo due chiacchiere sulla scuola, la didattica a distanza e questo periodo che è appena passato e che verrà, insomma, come sta andando. Abbiamo un po' di persone che ci racconteranno le loro esperienze e niente, quindi vedremo. Ok, quindi avremo queste telefonate con persone che ci racconteranno appunto le loro esperienze nel loro percorso didattico, soprattutto in questo periodo, diciamo, più che altro interessante, anche difficoltoso di sicuro sia per gli insegnanti e per gli studenti. Di sicuro questo non sarà un'unica puntata, diciamo, una puntata speciale sulla scuola, visto che comunque come argomento è molto vario, ha molti campi da cui poter attingere, molti campi da poter affrontare appunto e da discutere. Quindi passo la parola all'esperta in questione, alla nostra amica Modi. Sì, più che esperta, ultimamente mi sono proprio presa a cuore questo tema, così forse per indole, forse perché da grande vorrei fare l'insegnante anch'io. E quindi ho iniziato un po' a informarmi su com'è andata. Vabbè, sappiamo tutti che le scuole sono state chiuse a fine febbraio, inizio marzo, scuole e università. E da là piano piano i vari istituti hanno dovuto mettere in piedi una didattica a distanza, la cosiddetta DAD, dall'asilo appunto all'università. E vediamo com'è andata in questi mesi, e fra l'altro il futuro è molto incerto, non sappiamo bene come riapriranno le scuole a settembre, se riapriranno, in che modalità. Ah sì, è un gran casino, mi pare di capire. Non è ho studiato molto, ma... E abbiamo la prima telefonata, adesso proverò a chiamare, intanto ve lo presento. È Pietro, è un ragazzo che ha l'ultimo anno, quindi dovrà fare questa strana maturità fra un paio di settimane. Vediamo se... Ma io intanto metterei un pezzettino, ricorderei a tutte le entità numerosissime all'ascolto di farci sapere, soprattutto, cioè prima di tutto, se siamo davvero in diretta, perché a quanto pare venerdì scorso non siamo andati in diretta. C'è stato un gap. Mannaggia. A parte questo, fateci sapere se ci sentite, fateci sapere se ci siete, potete scriverci su frittole@gattini.ninja, la nostra mail. Bellissima. Incredibile. E poi se andate su wombat.noblogs.org trovate anche un fantastico link al fantastico pad di Rise Up, su cui ci potete scrivere in diretta, direttissima, e insultarci altrettanto in diretta. O complimentarvi con Palmiro. Oh, sì. Subito, subito. Con la modesta, dai.

tre anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese. Siamo ritornati qua a Frequenze Smarmellate e in teoria dovremmo avere il nostro primo ospite. Pronto, ci senti? Pronto? Ah no, ecco perché non ci sentiva. Pronto, pronto? Pronto. Pronto, ci senti? Sì, sento, sento. Oh, ottimo. Che bellezza, noi ti sentiamo a manetta, ma bella lì. Sì. Bella lì. Ok, allora. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ci hanno detto che te sei un maturando, per l'appunto, volevamo fare appunto questa chiamata e capire bene appunto la tua esperienza in merito e sapere un po' come, quali saranno, diciamo, quale sarà la tua esperienza e quali saranno le difficoltà nell'affrontare, diciamo, la maturità, diciamo, in questo stato interessante. Sì, come hai detto tu, io sono maturando, sono in quinta e avrò la maturità breve, che consisterà in un'unica prova orale. E devo dire che sono un po' triste perché diciamo che gli ultimi giorni di scuola, gli ultimi giorni di liceo sono quelli più belli, specialmente la quinta, il quinto anno è l'anno migliore. E siamo stati un po' messi al muro da questo virus e per questo sono un po' triste perché non ho potuto godermi gli ultimi giorni di scuola con i miei compagni e con i professori. Certo. E però appunto hanno fatto un buon lavoro secondo me quelli del ministero, ci hanno dato un po' le informazioni in ritardo, però diciamo che hanno strutturato un esame abbastanza bene che consisterà in una divisione di questo esame, di questa unica prova orale che sarà divisa in 5 parti specifiche durante le quali noi saremo guidati dai nostri professori, saremo un po' aiutati, diciamo, perché è una situazione un po' difficile per tutti. E i professori saranno tutti quanti interni, giusto? A parte il presidente. Certo. Che sarà esterno. Ok. Che scuola fai, per curiosità? Io faccio liceo Fogazzari in debito scientifico. Ok, quindi appunto niente prove scritte e... Niente prove scritte, un'unica prova orale. E ci sono dei fattori positivi e dei fattori negativi. Il fattore positivo, diciamo che la quantità di studio è decisamente minore. I programmi di ogni materia sono stati tagliati per facilitare un po' gli studenti, dato che la didattica a distanza, nonostante fosse l'unico metodo da poter adottare, era comunque una soluzione complicata un po' per tutti, perché le video lezioni online puoi seguirle ma sei libero di non farlo, dato che sei a casa e sei pieno di distrazioni. Certo. Tu hai molte lezioni durante la settimana? Allora, le ore diciamo sono state bene o male dimezzate. Se prima avevo 6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, quindi 30 ore settimanali, poi ne ho avute 4, dalle 3 alle 4 al giorno, insomma. Mm. Beh, con vari docenti, immagino. Sì, con tutti i docenti. Ad esempio, una cosa che mi è dispiaciuta è che hanno tagliato le ore di religione per dare più spazio alle altre ore di lezione, quando in realtà le ore di religione per me erano molto utili perché le utilizzavamo per fare un sacco di dibattiti interessanti. Ok. E tu hai anche ore di, diciamo, laboratorio più pratiche? O no? Ne avresti avute? Avrei avuto ore di laboratorio di chimica. E infatti a scuola mia avevano appena fatto il laboratorio nuovo, che io non vedrò mai, perché beh, magari lo vedrò, però non da studente, appunto. Avevano appena fatto questo laboratorio nuovo dove avremmo fatto i nostri esperimenti, però non avrò la possibilità di provarlo. Insomma, di provarlo, esatto. Ok. Comunque, Pietro, una delle mie domande era anche se avevi avuto, diciamo, anche mediamente delle difficoltà a seguire le lezioni, o anche magari, diciamo, qualche confronto con qualche tuo compagno, diciamo, di classe virtuale, se avessi avuto qualche difficoltà nel, al di là delle problematiche di connessione o di gadget, nelle proprie possibilità appunto di seguire, o a livello didattico le lezioni, o quali sono stati, diciamo, i gap di apprendimento. Scusa, c'è la musichetta che copre un po' la tua voce, non ho sentito bene. Scusami. Ripeto la domanda? Sì, grazie. No, se volevo più che altro sapere se magari te personalmente avevi avuto, diciamo, delle difficoltà, ora da ciò che mi è parso di capire, no, penso, delle difficoltà a livello di apprendimento con questo metodo della didattica a distanza, o se potevi testimoniare se qualche tuo compagno di classe avesse avuto tali difficoltà, diciamo, nel seguire le lezioni o... Allora qualche mio compagno di classe sì, aveva dei problemi di connessione e aveva difficoltà a seguire le lezioni, anzi ancora peggio, una nostra professoressa aveva dei problemi spesso, e c'erano parecchie interferenze video e interferenze audio, e a volte queste lezioni erano compromesse appunto da questi problemi. Però bene o male, diciamo che si riusciva a seguire e i professori proiettavano il loro schermo del computer nella video lezione, noi potevamo vedere dallo schermo del loro computer, proiettavano PowerPoint con delle slide, oppure la professoressa di matematica scriveva su una lavagna virtuale, quindi bene o male si riusciva a fare lezione, si riusciva ad andare avanti con il programma. Poi però il problema è che, appunto, essendo a casa, essendo comunque dei ragazzi, sì, siamo adulti, abbiamo tutti 18 anni, 19 con l'inclassemia, però appunto essendo a casa non è mai facile riuscire a concentrarsi bene sulle video lezioni, specialmente se puoi tenere la videocamera spenta e far finta di seguire, perché molte volte magari quando avevo la lezione alle 8 di mattina mi svegliavo, collegavo il telefono e mi rimettevo a dormire, cioè detta proprio fuori dai denti. Certo, tanto... E ovviamente non ci sono state tipo interrogazioni online o verifiche di questo tipo? Certo, ce ne sono state invece interrogazioni. E come sono andate? Cioè come funzionavano? In realtà per me è bene, perché avendo tanto tempo libero sono riuscito a organizzare il mio studio, però allo stesso tempo era facile anche copiare. Era facile, certo, copiare attraverso uno schermo, cioè puoi tenerti il libro sotto mano. Poi ci sono i professori che durante le interrogazioni ti dicevano: guarda la telecamera, non guardare in giro. Però comunque è sempre facile trasgredire le regole in queste circostanze. Beh, sì, si trova sempre dei metodi. Mi è sfuggita la domanda che avevo in mente. Scusa? No, niente, volevo farti una domanda, ma poi mi è sfuggita un attimo. Dal punto di vista, quindi, dei programmi sono stati tagliati, insomma, sono state tolte un po' di cose. Un pochino sì, anche perché appunto essendo state tagliate le ore, avevamo un minor numero di ore, e quindi era difficile fare tutti i programmi interi. Ad esempio con storia siamo indietrissimo, storia abbiamo fatto l'ultima lezione oggi e a fatica siamo riusciti a finire la prima guerra mondiale, cioè la guerra fredda e tutti gli avvenimenti storici dopo la seconda guerra mondiale non li abbiamo nemmeno toccati. Certo. Poi matematica e fisica, essendo allo scientifico, ci abbiamo dato dentro e abbiamo finito il programma. però storia, italiano ad esempio, non abbiamo, abbiamo tolto un paio di poeti dal programma, allo stesso tempo anche i testi di italiano che avremmo dovuto studiare e sapere per l'esame, sono di una quantità minore rispetto a quelli che sarebbero stati in una situazione normale. Eh beh. Senti, ultima cosa, invece dal punto di vista della socialità quotidiana, come ti è cambiata la vita in questi mesi? Stai parlando in generale della mia vita? Sì, beh, il rapporto alla scuola, nel senso, immagino che ovviamente passando almeno mezza giornata tutti i giorni a scuola, gran parte della socialità sia anche lì. Certo, è stato un duro colpo anche questo. Anche perché insomma, per quanto uno studente a uno studente non piace andare a scuola generalmente, però quando come in una situazione come questa non si va più a scuola, uno si accorge in realtà di quanto la scuola sia importante per lui. E così insomma è successo a me. Quando durante il lockdown eravamo tutti chiusi in casa, a volte uscivo a farmi la mia passeggiata e molte volte passavo nel viale della mia scuola e la guardavo e dicevo è strano, insomma non metterò più piede lì dentro da studente. Certo. è successa questa cosa e vabbè, è andata così, insomma. Hanno ucciso i tuoi ultimi giorni romantici del liceo. Esattamente, che secondo me appunto è il periodo migliore della scuola superiore. No, ti capisco benissimo. Ok, dai, grazie mille Pietro, è stata veramente una testimonianza molto interessante. Grazie mille Pietro. È stato un piacere, ragazzi, grazie a voi. E in bocca al lupo per questa strana maturità. Grazie mille. In bocca al lupo per l'esame. Buona serata. Va bene, buona serata. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Oh, che bellezza. Perfetto, perfetto. Abbiamo appena visto il punto di vista di uno studente anche per quanto riguarda le superiori. Una cosa molto interessante che aveva detto Pietro era su quell'ora di religione che era così importante per lui, che magari non lo sarebbe mai stato per nessun altro, io penso, diciamo, a scuola, no? Per essere un po' brutali e un po' sinceri, però interessante, perché appunto diceva, sottolineava il fatto che veniva usato, diciamo, per creare dibattito, comunque una conversazione. Comunque vabbè, no, dipende molto dagli insegnanti. Sì, quindi. è vero. Come quelli di Roma. Diamo spazio a questa orrenda canzone a tema. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero. E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte ancora paura nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzone. Notte di sogni, di coppe, di campioni. Notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca. Ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore. Scusate, questa era veramente brutta, lo so, proprio brutta. Perché? Ma perché? Meritevole. meritevole. Perché, vabbè, perché l'hai scelta? Modi. Così, mi è venuta in mente maturità proprio banale, brutta e... Boh, non l'ascoltavo forse dalla mia maturità e... Intanto, a proposito di cose mature, Palmi ha mollato una scoreggia che non si sta più aprendo. Nel mio lato non è ancora sì, arrivata. Sono rivelazioni scottanti in onda, che vanno a ledere, diciamo... Alle... No. Attenzione, abbiamo una chiamata. Una chiamata in redazione. Attenzione, attenzione, restate sulle spine. Nel frattempo scriveteci, scriveteci. Comunque. Dovremmo avere appunto questa chiamata, se non sbaglio, mi dicono dalla redazione. Ah, pronto, pronto, pronto. Ci senti? Pronto, pronto, pronto. Oh, bellissimo. Senti, cambiamo tema per un attimo. Ok, si torna quindi a alberi e fiorellini. Ciao, mie cari e mie care. Ciao Morgana, io... dici cosa, dove sei, cosa vedi? Che fai? Io oggi stranamente non sono tra le pareti di Frittole, ma mi trovo in piazza, in questo momento in piazza Santa Maria Novella. Oh, che e bello. Abbiamo appena fatto una bella biciclettata da Piazza Tasso, passando per i viali, arrivando fino a Piazza della Signoria, in piazza con gli studenti e le studentesse di Fridays for Future Firenze. Saremo una cinquantina di persone e devo dire è andata molto molto bene, insomma eravamo tante nonostante il lockdown, nonostante la fase che abbiamo vissuto in questo momento, per cui non scendevamo in piazza da veramente tanto. E la partecipazione c'è stata, è andata molto bene. Fico. Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori appunto di che giornata si tratta, in particolare oggi? Certo, oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e diversi politici oggi hanno già fatto diverse dichiarazioni sulla transizione ecologica, sulla volontà di ridurre le emissioni e insomma noi volevamo un po' dire la nostra su questa giornata oggi. E certo, quindi, perché appunto, rischiano sempre di tirarci la supercazzola. È un po' sì, direi. E invece voi... E quindi sono andati in Piazza della Signoria per rompere un po' le scatole al sindaco Nardella. Oh, bello, bello. Sentire che ci sono delle idee nuove, soprattutto un po' di pratica. Esatto, ma poi finalmente veramente si è risceso in piazza e poi ovviamente scende in piazza con la bici è sempre simbolico. No, certo. Firenze, che è una città in cui l'utilizzo dell'automobile è veramente a livelli incredibili, in cui il sindaco dichiara sempre di voler avviare una transizione ecologica della città, ma questo non è mai successo. Quindi insomma oggi nella giornata mondiale dell'ambiente siamo un po' scesi in piazza a voler dire la nostra, ecco. Bene, ottimo. Fantastico. Grazie Morgana. Ti ringraziamo per questo contributo. Mi fa molto piacere. Grazie a voi, come sempre. Che il bilancio sia positivo, se hai qualcosa di aggiungere, da aggiungere. Beh, mi dispiace che non siete qui a pedalare con noi, innanzitutto, ma soprattutto un ciclista rinomato come il reverendo, però insomma per il resto non c'è molto da aggiungere. Noi adesso ci continuiamo a spostare, sta continuando il bike strike, sta continuando e riconcluderemo la giornata in piazza Tasso. Ottimo. Quindi ottimo. Io ora ricomincerò a pedalare, ragazzi, quindi vi saluterò, grazie, sì. Grazie mille per la chiamata. Buona pedalata. Grazie a te Morgana, saluto a tutti quanti. Ciao cari, buona giornata mondiale dell'ambiente. Evviva, evviva. Evviva. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Quindi l'appuntamento è in piazza Tasso, se volete aggregarvi alla fine di questo bike strike. Ascoltando però Radio Wombat mentre pedalate. Ma poi forse appunto le onde radio inquinano, penso. Ma non vorrei nuocere studio di fretta. Le onde radio inquinano? Trasportano il Covid. Trasportano il Covid. Attenzione. No, vabbè, io sono. Volevamo fare. Commenteremo forse dopo la telefonata di Pietro, vi va? No, perché sì, ci ha dato un po' di spunti, ma continuerei a fare chiamate, raccoglierne ancora e poi okay, diremo le nostre cavolate mettendo insieme gli spunti. Facciamo un salto nel passato. Allora, sì, abbiamo sentito appunto uno studente, poi in realtà adesso sentiamo una maestra, andiamo indietro. Una maestra dell'infanzia. Proprio asilo, nido. Ah, sì, Infatti la prima canzone era esatto. Dedicata a lei, se non sbaglio. Sì, sì, proprio ai bimbi e sì, era io penso le bimbe. Più per ricordare quell'aspetto ludico e giocoso che riguarda, diciamo, tutti i gradi della scuola. Tutti i gradi, Tutti i gradi. perché c'è scuola primaria, scuola secondaria di secondo grado. Tutti i gradi. Pronto? Eccola. E Martina? Ciao. Ciao. Sentite? Sì, tu ti senti bene? Sì, mi sento. Ottimo. Ciao a tutte e a tutti. Oh, che ciao. Bellezza. Come state? Tutto bene. Ma sì, bene, dai. Bravi, fa piacere. Senti, Marti, ti chiamiamo per così, per farci raccontare la tua esperienza di maestra in questi mesi di quarantena. Ok, allora, intanto puntualizzo una cosa così subito antifaticissima. Ah, che, vai. Che non sono maestra ma sono educatrice. Scusa. Oddio. Attenzione. Sbaglio clamoroso. No, scherzo, però io sono un'educatrice che lavora in un centro sperimentale 06, cioè? Comprende, cioè che praticamente non è solo un asilo, cioè non è solo fino agli 3 anni, ma diciamo il ciclo continuo, i bambini rimangono all'interno della struttura e praticamente non c'è la materna, cioè è un unico ciclo che finisce nel momento in cui vanno alle elementari. Ah, okay. È un nido e materna fusi insieme. Tipo. Sì, però la cosa interessante per questo sperimentale è che non è una materna, cioè è proprio un ciclo, è un'idea di fare un programma unico che continui negli anni e che quindi non ci sia sempre quello sbalzo che c'è fra il nido e la materna, certo. Che nessuno di noi si ricorda, ma è che è uno sbalzo abbastanza grosso, anche uno stile, diciamo, educativo diverso, completamente diverso. Ma c'è l'idea di fare una sorta di unico filo conduttore che vi porti ai 6 anni a poter aver avuto proprio un percorso più ampio, ecco. E quindi tu stai con bimbi e bimbe dagli 0 ai 6, ai 5? Sì, allora io sono nello 0-3, però comunque lavoro anche, perché sono due sezioni, però lavoro anche con il 3-6, ecco, faccio con loro delle attività magari più mirate, tipo musicali, perché oltre al nido io lavoro anche, faccio dei laboratori con ragazzi con disabilità, ma anche con bambini piccoli, nelle scuole di musica e lavoro appunto con la musica. Ok. Molto bello. E quindi diciamo queste due cose, cioè due cose, in realtà sono 20.000 e tutte diverse, vabbè. E niente, che è successo? Si è praticamente bloccato tutto, cioè diciamo che oltre al nido anche tutte le attività che facevo hanno il bisogno di contatto e di presenza. E non si può, e presenza, esatto, non si può chiedere. E quindi si è bloccato tutto. Si, cioè, diciamo che l'asilo siamo stati in un limbo finora, ma adesso è certo che fino a settembre non torneremo. Siamo in cassa integrazione, però diciamo che si chiama FIS e non copre tutto, diciamo che dobbiamo fare delle ore in più a casa per poter avere uno stipendio, diciamo, pieno. Cioè sempre la didattica a distanza con i bambini di questo asilo sperimentale. E allora noi non facciamo didattica perché non è appunto, non essendo, non istruiamo, ma siamo educatori, quindi non possiamo fare neanche didattica, ma facciamo degli incontri con i bambini una volta a settimana, due gruppi diversi, per diciamo un'ora, ma in realtà non è mai un'ora piena, cioè fra che si connettono e tutto, diciamo sì, è un'ora, però ecco un po' meno. Nel quale raccontiamo dei libri, raccontiamo delle scatole narranti, cantiamo delle canzoni, ogni volta cerchiamo di proporre un po' delle cose diverse. E poi facciamo del lavoro da casa, tipo diari dei bambini, letture, ci fanno fare degli articoli, ci stanno un po' inventando il lavoro, diciamocelo molto francamente. E oltretutto c'è il mio collega, mi sta ascoltando, quindi lo saluto, e se dirò qualcosa di sbagliato può commentare. E comunque diciamo che sì, facciamo, cioè per ora si è improvvisato. Sì, più che improvvisato, cioè nel senso è una cosa che ormai stiamo facendo da tot di mesi. Io all'inizio ci stavo parecchio male, cioè era una cosa che mi ha veramente messo in difficoltà, perché a parte di essere la persona meno tecnologica del mondo, e quindi già questo. E poi per me stare davanti allo schermo, cioè, cioè è proprio una cosa che non mi piace, cioè sto facendo una cosa che non mi piace e quindi chiaramente non ci sto bene. E in più mi sembra che, cioè, non è che non stiamo facendo niente di che, stiamo cercando soltanto di mantenere un contatto con queste famiglie. Ok. Però che non è niente, è qualcosa, però ci sono vari punti di riflessione, secondo me, che cioè, rimangono un po' con dei punti interrogativi, che sono venute fuori proprio in questo periodo. E diciamo che principalmente noi abbiamo raggiunto le famiglie, ma non le abbiamo raggiunte tutte. Cioè, le famiglie che hanno più situazioni di disagio in realtà sono quelle che sono rimaste più fuori, perché chiaramente non sono persone che hanno la facilità di connettersi, e anche quella, diciamo così, dimestichezza all'interno della giornata, di poter fare questa cosa. E quindi soprattutto se c'è una situazione di difficoltà, si parla di situazioni veramente gravi e che appunto in realtà le abbiamo perse, cioè non si sa più che fine hanno fatto. E questa è una cosa che più di non solo noi l'abbiamo sentita, ma ho riscontrato anche questa cosa con altre persone che lavorano nel nostro settore. Cioè, quindi la famiglia con disagi, che sia sociale, ma anche i ragazzi con disabilità, cioè i ragazzi con disabilità sono a casa, esclusi. Sono stati bloccati a casa senza aiuto, già ce l'avevano poco prima, adesso proprio, cioè, sono in balia cioè le famiglie hanno il dovere di stare, diciamo, tutto il tempo dietro a questi figlioli che non possono fare niente in soldoni. Certo. Quindi, cioè, si arriva alle famiglie, ma a quali famiglie? E poi, cioè, le famiglie in generale sono state molto in difficoltà, non sono state, cioè, si tratta di famiglie bloccate in casa con bambini che hanno bisogno di uscire, hanno bisogno di una socialità. E quindi, in nome di questa cosa, sì. Però cioè, è stato, cioè, questa chiusura che le abbiamo chiesto ai bambini è stata una cosa molto grossa, che ce la possiamo giustificare noi adulti? Sì, boh, vabbè, questo è discutibile, ma loro no. Quindi, non lo so, ci sono tanti punti che rimangono un po' così in sospeso e insomma li lascio aperti, perché non so rispondermi neanche io totalmente, però... Diciamo che questo arrivare alle famiglie non so quanto è reale in realtà. Ecco. La situazione poi di certo deve essere molto molto complessa. Ci dicevi appunto che già te fai fatica, diciamo, a stare davanti a uno schermo, quindi mi immagino quanto possa essere difficoltoso e quanta attenzione possa tenere un bambino davanti a, diciamo, queste poche ore che usate, diciamo, certo, per intrattenerle, appunto, diciamo, anche per avere un contatto che non siano magari solamente le famiglie, magari anche per i bambini, quei luoghi di condivisione e contatto, soprattutto per i laboratori che fai, potevano essere, sì, già una valvola di sfogo e un onere in meno da portare da parte appunto delle famiglie, quindi ha portato chiaramente, a come hai appunto raccontato in questi minuti, a un disagio sociale, per non parlare di quello economico, per i disagi economici che ha provocato questa situazione diciamo anche nella scuola, o per voi educatori o per chiunque altro, per cercare di seguire online con qualsiasi dispositivo appunto questo tipo di situazioni. Sì, assolutamente, cioè sia quello che dicevi te sul fatto della difficoltà, perché comunque bisogna metterci nel mezzo, prima di tutto il fatto che quando ti connetti devi avere la connessione perfetta, che nessuno ha, di solito questi spazi che si creano, queste stanze, in realtà sono molto problematiche perché non funzionano bene, quindi già parti con una cosa e non funziona. In più ogni famiglia a casa ha delle problemi diversi, sia logistici che i bambini in generale, cioè non li possiamo chiedere assolutamente di stare davanti a uno schermo. Infatti noi abbiamo subito messo in chiaro che se volevano stavano lì, se non volevano non dovevano assolutamente forzarli, prenderli, metterli davanti, potevano continuare a giocare tranquillamente, tanto ci sentivano le nostre voci, bastava quello. Abbiamo pensato subito di mettere in chiaro queste cose, perché non è assolutamente una forzatura, non deve essere assolutamente un dovete stare qui perché è il momento in cui si vedono le persone che vedevate al nido. Cioè è comunque una cosa che può essere un aiuto, però se il bambino c'ha voglia, poi la maggior parte tipo, ne so, si svegliava, erano tutti un po' ciuchi. Cioè, insomma, non è che tutti i bambini sono in grado in quel momento di stare lì, quindi era una cosa molto libera. Però era, insomma, soprattutto all'inizio è stato difficile trovare un modo di gestirla, anche per noi, perché non lavoriamo così. Poi in realtà siamo sempre stati contro, no, l'uso della televisione, degli schermi, cioè non lavoriamo su altre cose. Certo, trovarsi, sì, a usarlo. Poi per bambini così piccoli, cioè, è una cosa che uno magari eviterebbe anche a prescindere. E poi l'altra cosa che hai detto, sì, cioè che oggi una mamma ci ha detto questa cosa, che tipo ci ha detto senza di voi, cioè se c'eravate voi avremmo fatto, Anna avrebbe fatto un sacco di cose, avrebbe fatto un sacco di cose, e qua non ha fatto, anche di autonomia, di sua acquisizione di autonomie varie, no? E la riflessione era che comunque noi abbiamo un carico che ci viene messo dalle famiglie molto forte, anche se veniamo bistrattati a livello sociale come appunto quelli, il parcheggio dove vanno i bambini, chiaramente non è così, cioè queste famiglie sono comunque bisognose di mandare il bambino in una comunità, in un luogo in cui possa stare con i propri pari, poter stare con figure che non siano genitoriali, e siccome le famiglie non sono più come quelle di prima, in cui cioè la famiglia era allargata, e comunque non è che il babbo e la mamma stavano tutto il giorno col bambino, non esisteva, cioè comunque il bambino stava con tante persone diverse, e chiaramente il nido diventa un po' il centro. E in tutto questo c'è una politica che non ci sostiene, non ci ha mai sostenuto. Si sono fatti belli all'inizio della quarantena dicendo appunto che eravamo degli eroi silenziosi, questa frase che non aveva minimamente senso, perché nessuno di noi è un eroe e soprattutto non è silenzioso, anzi, cioè, vuole farsi sentire e soprattutto vuole far capire che se è una professione. Siamo delle persone che lavorano e non ci possono essere discriminazioni fra chi lavora in cooperativa, chi lavora in comune, che prendono esattamente, cioè prendiamo esattamente la metà. Quindi c'è tante cose che ti apre proprio un vaso di Pandora, infatti sto parlando anche troppo. No, però anzi, è un mondo complesso, quindi è un mondo veramente complesso nel quale si sfrutta la persona tantissimo. perché le capacità che hai sono sempre ben volute nel momento in cui servono, però poi dopodiché diciamo che non si fa niente. Infatti sono stati fatti un sacco di bei discorsi, ah, vedremo, cambieremo un sacco di cose, ah, se questo è un modo di riflettere, ma io purtroppo sono un po' cinica su queste cose e non ci credo che faranno grandi cambiamenti, perché appena si risetta si riparte come prima. E per settembre sai come andrà? Allora, hanno fatto delle linee guida che io ho letto un po' velocemente, ma comunque l'idea è di usare tantissimo gli spazi all'aperto, il che a me mi fa anche molto piacere, perché sarebbe bello anche un po' smorzare tutta quella matrice proprio un po' italiana del non poter stare troppo fuori quando fa, cioè, fa freddo, non si devono sporcare, perché c'è tantissimo questa cosa qui. E potrebbe essere bello avere la scusa per dire noi si sta fuori perché bisogna stare fuori, quindi non ci potete dire no, ma fa freddo, che cioè, comunque possiamo stare fuori, e magari la gente si accorge che stare fuori è anche più salutare. Quindi l'idea è stare fuori, fare delle uscite tipo separate per gruppi di bambini, e quindi fare delle uscite scaglionate, dopodiché, boh, cioè nel senso, noi il contatto con i bambini dobbiamo averlo, cioè certo. Come loro avranno il contatto fra di loro, cioè è impossibile chiedere a un bambino qualsiasi cosa in più. Quindi vediamo, per ora non abbiamo tante risposte, non abbiamo tante, cioè siamo un po' in un limbo nel quale ci tengono un po' così, sperando che questa cosa un po' decada e si possa tornare in maniera più tranquilla, però non so. Bene. Ancora tutto da vedere comunque nel campo. Andiamo male a tutti, però. No, sì, ma lo sapevo che sarebbe andata un po' così stasera. Ti sentiamo un po' pessimista. Che c'è tutte le cose che abbiamo accumulato anche in questo periodo, che probabilmente sono non si può fare a meno di non vederle, perché comunque. No, di sicuro, sì, poi. Cioè, vediamo, come dire, siamo sempre una categoria così un po' lasciata a se stessa, ed è veramente allucinante, perché in realtà dovrebbe sia la categoria bambini infanzia, ma soprattutto il sociale in generale, cioè sì. È una categoria lasciata veramente così allo sbando, quando è invece è la prima che si fa carico delle persone, cioè, che è fondamentale. Quindi vedremo. Sì, tra l'altro l'infanzia deve essere anche un mondo molto molto vasto, cioè è complicato, soprattutto anche per quanto riguarda l'educazione. Sì, c'è tante panorami diversi, tante linee guida diverse, sì, e poi appunto è un panorama nel quale riesci a entrare lavorativamente molto veloce, perché c'è richiesta, però vieni messo all'interno del mondo delle cooperative, che anche la migliore del mondo è comunque una cooperativa che diciamo ti mette in una situazione nel quale rispetto a altri tuoi colleghi che fanno lo tuo stesso lavoro ma sono statali, prendi, cioè hai a livello economico la metà, però fai le stesse cose. Sì, poi certo. Qua si entra anche nel mondo degli appalti, diciamo, per quanto riguarda sì. Le cooperative, quindi anche qui diventa anche lì si apre un mondo molto districata la faccenda. Comunque non vi intristite troppo, perché no, adesso... Martina, grazie mille per la telefonata, per essere stata disponibile e soprattutto per averci appunto detto e illustrato il tuo punto di vista, ecco. Poi a livello materiale, per quanto riguarda le difficoltà soprattutto in questo campo del sociale, della scuola e dell'infanzia, che diciamo è anche la fascia più vulnerabile e fragile in questo campo. Sì, assolutamente, anche perché è quella che in realtà è agli occhi di tutti, però allo stesso tempo viene lasciata così. Cioè, appena si può si cerca di parlare di altro, perché in realtà non è, cioè c'è cose più importanti, no? A livello politico, cioè, e quindi fa un po' specie, perché bambini vuol dire famiglie, vuol dire donne che stanno a casa. C'è tutto un mondo dietro al concetto di il bambino rimane a casa, non è solo il bambino che chiaramente, ma c'è anche le famiglie dietro, c'è anche appunto tante persone che non sanno come fare, appunto ci hanno detto che tanti parchi sono chiusi, non sanno come fare ai bambini, perché in città soprattutto non li riescono a far uscire. Ah sì. Quindi, ok, grazie Marti, non so cos'è questo suono di sfondo che è diventato appare, vabbè. Non lo so, perché è il mio telefono che... Ok, ma ti arrivano i messaggini. Ah. Perché sono famosa, mi stanno ascoltando tutti. Sei ricercata. Grazie Martina. Vabbè ragazzi, a presto. Grazie a voi, a presto. Buona ciao. Serata. Un bacione. Buona serata, ciao. E abbassiamo questo tappetino, mandiamo... Un pezzettino allegro, manda un pezzettino allegro. Considerazioni a dopo, pubblicità. Yeah. Ritorniamo in diretta sul Wombato. Eccoci. In questo venerdì, venerdì di gioia. E proviamo... sì, è presa bene. Gioia è presa bene, proviamo. Oh, ma sta chiamando? Sì. Teoria. Attendiamo. Pronto, pronto? Pronto? Pronto? Ci senti? Sì, vi sento. Ciao Roberto. Sì, ciao. Ciao. Allora, senti, abbiamo fatto già un paio di telefonate così per sentire esperienze personali tra alunni e insegnanti e niente, richiediamo anche la tua, ok, in che scuola... Sì, lo ok. sì, io lavoro in una scuola primaria, elementare, insomma, in centro, che fa parte dell'istituto Centro Storico Pestalozzi. Mm-hmm. E quest'anno insomma avevo una terza elementare e come sono andati questi mesi di improvvisa lontananza dalla scuola? Duri, è stata molto dura e penso per me dal punto di vista professionale e anche personale, credo anche per i bambini e le bambine della classe, insomma è stato un momento che tutti e tutte abbiamo cercato di affrontare al meglio, ma è stato molto impegnativo, insomma. Anche perché è stato abbastanza improvviso, no? Non c'è stata una preparazione. Infatti, sì, uno dei problemi grandi è stato questo, perché noi siamo andati a casa in quel famoso pomeriggio del, mi pare, 5 marzo, con tutto il delirio che successe, anticipazioni, notizie su Titolo della Repubblica, smentite della ministra e quant'altro, ma diciamo che non eravamo preparati a una sospensione così lunga, ecco. Certo. E quindi anche proprio dal punto di vista organizzativo fin dall'inizio è stato abbastanza problematico, eh. E poi come sono andate proprio nel pratico le tue, le vostre settimane, diciamo, come sono trasformate? Si sono trasformate piano piano in un adattamento continuo, insomma. Di positivo c'è stato diciamo un tentativo di massima collaborazione fra noi colleghi per individuare la strada più equilibrata e più giusta, e di positivo sicuramente l'appoggio dei genitori, che è stato fondamentale soprattutto per queste fasce d'età, e l'abbiamo sentito veramente, veramente vicino, insomma, anche con le estreme difficoltà che avranno avuto. Poi io, fra l'altro, sono anche padre di una bambina, di un bambino di 5 e 8 anni, quindi diciamo vivevo anche dall'altra parte e mi rendevo conto delle difficoltà che c'erano anche per i genitori. Quindi hai fatto entrambe le cose? Sì, ho fatto entrambe le cose, sì. da tutte e due le parti dello schermo. E quindi sì, di positivo questo, e di negativo appunto l'improvvisazione generale, ecco, diciamo che questa forma di didattica in cui l'uso esclusivo delle tecnologie per avere relazioni, rapporti e per gli apprendimenti non era assolutamente previsto, e nessuno e nessuna, per quello che chiunque ne possa dire, era pronto per poterlo fare, insomma. Roberto, io volevo chiederti, tanto per non darlo per scontato, appunto leggevo anche su vari articoli che ci sono state c'era anche difficoltà da parte degli insegnanti a prendere, diciamo, avere con la dimestichezza con gli apparecchi tecnologici per la didattica a distanza, appunto, e si parla tanto di disagio appunto creato nei confronti delle famiglie, dei bambini che dovevano seguire le lezioni, appunto si sentiva molto dire anche degli insegnanti, diciamo, che molti erano alle prime armi, diciamo, con i computer e doverli utilizzare appunto per un ruolo così specifico. Sì, questo è stato un problema grosso, sia dal punto di vista materiale, nel senso proprio dei dispositivi e delle infrastrutture, perché non tutti gli insegnanti, e dato, come dire, le storture del mondo del lavoro scolastico e quindi anche la quantità notevole di insegnanti precari o fuori sede, che quindi hanno, come dire, cioè non è detto che abbiano a casa una connessione con fibra e un computer o un dispositivo adatto, quindi sia dal punto di vista materiale sia, come dici te, dal punto di vista anche proprio del saper fare, no? Del saper usare, delle strumentalità nei confronti dei computer, sia anche proprio dal punto di vista più didattico, no? Cioè sì, sì. Non è che accendendo una piattaforma di sincrono in videochiamata e sai così magicamente farci delle cose che abbiano un senso, un significato didattico, educativo, non è assolutamente automatico. No, non tutti i servizi soprattutto. Come? No, dicevo, non tutti i servizi appunto hanno una funzionalità così immediata. Sì, sì, anche questo, ma poi cosa farci dentro è stato un interrogativo sì. Che ci ha accompagnato esatto. Fino a ora, fino a domani, ci accompagnerà fino a 10, nel senso ogni tentativo era un tentativo nuovo totalmente, perché ecco, non è che ti puoi mettere davanti alla telecamera con Meet, Jitsi, Zoom, non so, chi più ne ha più ne metta, Team e tutte le mille piattaforme che sono state usate in questo periodo, e anche se funziona tutto al meglio, poi cosa farci rimane e come farlo rimane in interrogativo aperto, insomma, ecco. E ad esempio cosa avete provato a fare, così per capire? Allora, non lo so, noi all'inizio siamo mossi pensando la fascia d'età che ci riguardava, la primaria, rivolgendo subito l'attenzione all'esposizione agli schermi, quindi abbiamo cercato di contenere le ore di sincrono, perché poi qualsiasi didattica online, che poi io non ce la faccio a chiamarla didattica a distanza perché è un ossimoro che non si può sentire, comunque qualsiasi tipo di formazione online, telematica per adulti o per figlioli, non è che il momento in sincrono è l'unico, cioè qua c'è stato questo grosso fraintendimento che l'unico momento in cui potevi fare didattica era in diretta con sincrono, ma non è proprio così, quindi noi si è cercato di contenere queste ore non andando sopra le 5 settimanali, anche per cercare di far respirare i genitori che avevano poi chiusi un figlio o dovevano fare smart working loro, figli probabilmente alle medie o alle superiori, fratelli più grandi, quindi si è cercato un po' di contenere questo, e per la nostra fascia d'età, almeno fino alla quarta elementare, abbiamo cercato di proporgli attività fuori dallo schermo, cioè comunque usare le piattaforme che avevamo a disposizione per dare le indicazioni o video tutorial fatti da noi o letture eccetera, ma poi le cose fargliele fare lontano dal computer, diciamo, che ne so, tipo i temi, i testi su quaderno, certo, non scritti lì su computer, anche perché insomma ci sembrava giusto e come di sottrarre più che aumentare l'esposizione agli schermi, perché poi nella quotidianità, mi immagino nei momenti più duri della chiusura e dello stare in casa, avevano anche altre occasioni, no? Per stare davanti allo schermo, immagino sì. Videogiochi, i cartoni, le chiamate a parenti, amici e quant'altro, quindi noi si è cercato più di sottrarre che di aumentare, ecco, un po' la tendenza generale è stata questa. E la risposta un po' di bambini e bambine com'è stata? Qui cioè, diciamo che uno dei grossi problemi era riuscire a capirla. Questo è stato il problema più grosso, riuscire a capirla fino in fondo. E piano piano, oliando un po' i meccanismi, però ecco, è veramente difficile, mancando tutto, anche nei momenti in sincrono e quindi usando le piattaforme per le videoconferenze, è totalmente diverso il messaggio che hai, perché comunque rispetto che a quello che riesci a percepire in presenza, no? Perché comunque manca tutta la parte fisica, corporale, la prossemica, sì. Quindi una parola detta in maniera così, con lo streaming che regge, no, con l'immagine che va a scatti, insomma, ecco, non riesce a coglierla fino in fondo. e certe volte è stato più utile, più che il momento in sincrono, è stato più utile, avevamo una piattaforma che è quella fornita da Google, dalla G Suite, che è Classroom, è stato più utile il sistema di messaggistica in cui ci potevamo scambiare messaggi scritti noi e i bambini, piuttosto che i momenti in cui eravamo in 10 o 20 in videoconferenza, che lì sono veramente difficili da gestire. Beh, immagino. E senti, prospettive per settembre, che non è molto chiara settembre. La situazione. No, assolutamente. Allora, qui c'è veramente una grossa difficoltà nel pensarle. Diciamo che il problema è l'atteggiamento e come è stato condotto dal Ministero tutta la situazione non fa ben sperare, questo sicuramente no, perché è stata sempre condotta in maniera molto emergenziale, con una carenza di prospettive a lungo e medio termine, quindi questo a me e anche a vari colleghi che sento ci preoccupa. E da parte nostra stiamo cercando di introdurre degli scenari, cioè abbiamo, almeno nella nostra scuola, abbiamo fatto due piccoli gruppi di lavoro per pensare a come potrebbe essere la ripartenza a settembre, chiaramente pensando che debba essere in presenza assolutamente, perché non vediamo, cioè questo qui è stato uno stato di eccezione assoluto e non ci può essere scuola se non è una scuola fatta l'uno di fronte all'altro e l'uno vicino all'altro, nel senso si può stare vicini anche a un metro di distanza, insomma, piuttosto che con uno schermo e dei cavi internet nel mezzo. E quindi non so, si è iniziato a pensare, però bisogna vedere come queste idee possano poi armonizzarsi con quelle che saranno le direttive. Certo, le idee di base sono di aprire, che la scuola si apra alla città, ci sono già delle iniziative in corso, c'è la città bambina che ha lanciato un appello già ormai un mese fa per tentare di intavolare delle reti fra istituzione scolastica, comune e settore sociale in senso lato, potrebbe essere un'opportunità gigantesca, però uso il condizionale sottolineato da cinque volte, nel senso potrebbe essere anche il momento di dire che ha un certo immobilismo della scuola italiana che è centrato sulla classe e le 8 ore seduti nei banchi, potrebbe essere un'occasione bella, certo è estremamente difficile, i tempi sono stretti, quindi se me l'immagino è una scuola che sta pochissimo in classe, più negli spazi aperti, ma non tanto nei giardini, perché non tutte le scuole ce l'hanno, ma penso alle piazze, penso a circolini arci che stanno chiudendo e che avrebbero probabilmente degli spazi anche adeguati, penso ai cinema, ai teatri, tutto ciò che la città può offrire come spazio da trasformare in spazio educativo. Certo, bene. Sì, poi di sicuro sei, diciamo, anche l'ennesimo testimone dei disagi sociali provocati appunto da questa situazione emergenziale. Sì, noi come categoria dal punto di vista economico diciamo che eravamo tutelati, però insomma dal punto di vista lavorativo è stato uno shock notevole, e soprattutto dal punto di vista relazionale con i bambini è una cosa che ci vorrà tanta cura per recuperarla, insomma. Va bene, grazie mille Roberto. No, grazie a voi. Grazie davvero. Grazie. Buona serata. Buona trasmissione, buona serata anche a voi. Grazie. Ciao. E abbiamo appena sentito Roberto. Ora, non per cattiveria nei confronti di, appunto perché non vogliamo categorizzare la categoria degli insegnanti, ma andremo appunto di cattivi maestri. Stesso cielo, stessa terra.

bene, per sì. le numerose, numerosissime reverendo, se non sbaglio, entità all'ascolto. Poli è una nostra cara amica e frequentatrice dell'università, che, se non studentessa, al computer a quanto pare negli ultimi tempi. Esattamente, oggi è finita la scuola, la mia scuola, per l'esattezza. Hai finito i corsi? Sì, ho finito i corsi. Niente più compiti. Ah, quindi i gavettoni dell'ultimo giorno di scuola. Sì, li sono fatti da sola. No, corri di là. Acqua sul, sullo schermo. Oh no. No. Sì, qualcosa di veramente triste si è concluso oggi, in realtà non per sempre, perché secondo le drammatiche previsioni anche a settembre noi universitari riprenderemo in questa modalità, proprio perché non abbiamo, cioè siamo, se già la scuola è l'ultima ruota del carro della nostra bellissima società, l'università ancora di più, perché siamo grandi, siamo maturi, non abbiamo bisogno di babbo e mamma che ti mettono davanti al computer. Mamma, esatto. E quindi date poi i numeri della mia università in particolare, non molto probabile, cioè se tutto va bene probabilmente ci sarà un alternare, quindi un po' in presenza, un po' da casa. Però ecco, immaginarmi 2 anni dell'università di 1 e mezzo fatto al computer mi prende un po' male, devo ammetterlo. Soprattutto vista magari la bolletta a fine anno. Davvero. Sì, fosse gratis, sì. Dici, vabbè. Esatto. Esatto. Pago internet, no. Però. E invece no. Anzi, vai a comprarti saponette, perché è finito internet, roba del genere, computer che si rompono, ma per fortuna vivi con eroi che te lo aggiustano. Però insomma è stato... Il conto resta salato uguale. Davvero, salatissimo. È destinato a durare nel suo essere salato. Tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei, ecco, dire, diciamo, delle cazzate. Si può dire cazzate? Sì, sì, vero. Anche minchiate, stronzate. Mi sembra, mi pare di ricordare, ora andrò a appurare anche le mie fonti, che il Parlamento ha previsto un disegno, appunto, di legge che andrà a regolamentare, scusate, diciamo, in futuro, cioè da settembre in poi, quella che è la presenza degli studenti anche in base, diciamo, un po' alla media, o comunque ancora non si sa bene, cioè che una percentuale verrà, appunto, di queste lezioni sarà online e il resto magari in presenza, o si parla anche addirittura a seconda dell'abilità dello stesso studente, che chi ha meno difficoltà o chi è più bravo può anche rimanere a casa e seguire le lezioni online. Nella meritocrazia. Ma andremo ad appurare, andremo ad appurare queste fonti, scusate questa piccola bolla. I classici disegni alla cazzo. No, questo non lo sapevo e spero che ti stia sbagliando. Hai letto l'articolo? Spero anch'io, sull'ercio. Spero anch'io. No, mi pare che era la Gazzetta Ufficiale, tra l'altro, ecco, dello Stato. Quindi, però andrò a riappurare, solo anche per aprire un'altra grande parentesi delle problematiche. Ah sì, comunque lo scenario per settembre è ancora abbastanza oscuro, nel senso. Sì, e anche questa oscurità la dice lunga. Esatto, sì, sull'incompetenza di chi dovrebbe, insomma, gestire il sistema scolastico. Incompetenza, ma anche secondo me l'interesse velato di lasciare questo ambito nel disordine. Così tanto, ok, vediamo prima di riportare i grafici monetari a un certo equilibrio, poi se riusciamo anche a mandare i bambini a scuola, tanto meglio. Vabbè, ma in una società che deve produrre reddito prima di tutto. Sì, reddito e ignoranti, perché consumino ignorantemente e così producono a loro volta. Mi sembra che il diploma serva, perché appunto se no non ci assumono in fabbrica, mi pare di aver capito. Che me lo diceva, sì, però forse tra un po' anche le poste ci vuole. Sì, però te lo danno online il diploma, fa un pochino, quindi... No, però no. Dico, in una società che è abituata a mercificare qualunque cosa, insomma, non mi stupisce che all'ultimo posto ci possa essere la sapienza, davvero. Sì, sì, infatti. Anche perché le scuole, i licei e le università sono luoghi, oltre che, insomma, per imparare qualcosa e trasmettere il sapere, anche per sviluppare delle capacità critiche, per auto-organizzarsi, l'indipendenza, per contestare qualcosa, l'interdipendenza sociale. E quindi tutti questi aspetti che, insomma, online si fanno veramente male, verrebbero cancellati facilmente. sono cancellati allo stato attuale dei fatti, perché sì, io l'interazione con i miei compagni ce l'ho sui gruppi WhatsApp per dire: ma questa lezione che cosa ha detto? Ma l'esame, eccetera, eccetera. È tutto ridotto a questo. Sì, sì, appunto, sì. Riduce l'istruzione ai suoi vari livelli, insomma, di età, al sapere nozionistico e basta. Tutto ciò che ci sta intorno viene completamente penalizzato, completamente, appunto, eliminato, sì, oltre che penalizzato. Siamo ridotti a delle menti e delle orecchie, delle orecchie che ascoltano la lezione e degli occhi che guardano lo schermo. Non c'è tanto altro. Ah sì, Sì, delle... Ti senti svuotata? Ti senti divisa? Assolutamente. Sì, tutto, cioè, secondo me c'è un'importanza del corpo in una dinamica della scuola come dell'università che ora è stata completamente dimenticata, annientata. Cioè, il corpo inteso non solo come i corpi che si toccano, ma tutta una serie di... Cioè, il corpo è, come dicevo, no, il centro, la convergenza di naturale e culturale. Ora non esiste più tutto questo. Siamo delle menti che devono ricevere con l'imbuto le informazioni che ci danno da un computer, e poi all'esame si cambia il verso. Io te le rimetto a te nel computer, al professore. Magari avessi 500 giga in testa. Sì, sì, sì. Sì, questo per gli studenti più grandi. Poi abbiamo visto tutti i problemi anche della scuola dell'infanzia, che là, appunto, nozioni forse se ne passano meno a livello di quello, a livello spicciolo, però è una formazione ancora di più a 360 gradi quando uno è bambino. Quindi sì, quello che ci dicevano Martina e Roberto, insomma. Sì, a livello soprattutto formativo. Sì, sì, di socialità, di apprendimento veramente a 360 contatto. Gradi, sì, esatto, la presenza veramente. Ebbene sì, non è l'ennesimo racconto distopico che leggiamo qua a frittole, qua ai vostri venerdì malandati, ma è la pura e nuda realtà. Piuttosto distopica, ma così è. Che dite, alziamo questo tappeto e passiamo all'ultimo collegamento? Vai. Thank you. La Costituzione italiana stabilisce che la scuola sia aperta a tutti e che l'istruzione sia un diritto di tutti, articolo 3 e 34. Dichiara inoltre che l'insegnamento sia libero ma contestualizzato in norme previste dalla Repubblica, finalizzato pertanto ai bisogni degli studenti, articolo 33. Dati tali presupposti, la scuola è posta oggi in molti dibattiti come bene comune, essenziale per il futuro di ogni paese e su cui diversi programmi politici chiedono di investire. Se infatti da una ricerca OCSE 2018 l'educazione e la cura già nella prima infanzia sembrano produrre maggiore mobilità sociale, l'obiettivo di ogni Stato dovrebbe essere quello di coprire le spese di organizzazione e ricerca per l'istruzione, l'educazione e la formazione. Si tratterebbe, ad esempio, di investimenti sul personale, sulla formazione, sull'innovazione didattica, sull'edilizia scolastica, tutti finalizzati al diritto al futuro delle giovani generazioni. L'istituzione scuola è quindi al centro di confronti pubblici, politici e istituzionali e anche sui temi della ricerca metodologica e organizzativa. La scuola è destinata in modo intenzionale alla trasmissione della cultura, all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla socializzazione delle nuove generazioni. È un'organizzazione fatta di valori, norme e pratiche. È una realtà complessa, identificabile come istituzione, servizio e comunità. Istituzione perché svolge importanti funzioni per la società, come l'innalzamento del livello di istruzione e la formazione del cittadino. Servizio in quanto fornisce prestazioni a individui e gruppi, seguendo indicazioni politiche e culturali. Comunità perché è un ambiente sia fisico che simbolico per l'apprendimento. Si tratta di aspetti ampiamente normati, per esempio dalla disciplina degli organi collegiali e dalla riforma dell'autonomia scolastica, come novellati fino ad oggi. La scuola è anche cultura del sapere, sistematico, condiviso, trasmissibile. È norma e rituali con una struttura latente e una organizzativa fatta di calendari, ore, curricoli. Stante la sua complessità, richiede una competenza riflessiva dei suoi attori per la continua rielaborazione di azioni, bisogni, aspettative, compiti. Alla fine del secondo millennio si è parlato di una ridefinizione del ruolo della scuola e di una fine dell'educazione, a fronte della difficoltà di seguire un modello normativo. Se l'educazione e la scuola sono il principale modo di trasmettere consapevolmente il sapere tra una generazione all'altra, le modalità pertanto cambiano. In ogni società esiste l'esigenza di educare e socializzare le nuove generazioni. Si può parlare di educazione come intenzionalità e progettualità a livello formale e di socializzazione a livello informale. Ma il punto è, in diverse epoche, come l'individuo assume la realtà dentro una esigenza di appartenenza e al contempo di differenziazione. Oggi la sfida della globalità è una sfida di complessità e di contestualizzazione del sapere per una sua costante rielaborazione e comprensione. L'attuale terza modernità, successiva alla fase industrializzata, mette costantemente in discussione spazi e tempi per apprendimento, organizzazione della didattica, curricoli scolastici. Il diritto al futuro che si basa su dialogo, capacità di risolvere problemi, fiducia, chiede un'equilibrata distribuzione della conoscenza. La scuola è ancora una risposta a tutto questo. È una risposta anche nella fase di emergenza epidemiologica Covid-19. Se la didattica a distanza nella fase della pandemia ha fatto emergere disuguaglianze negli spazi, spesso domestici, nelle strumentazioni, mancanti, nei tempi da conciliare con esigenze familiari, la scuola, riorganizzandosi, ha saputo tenere insieme il tessuto sociale e degli studenti e delle famiglie. Ha saputo leggere la complessità, l'eredità che la scuola acquisisce e sta acquisendo dalla didattica a distanza è la capacità di resilienza, di mantenersi comunità educante, di sviluppare nelle giovani generazioni life skills, le competenze per la vita. A abbiamo appena letto delle ispezioni di un articolo di Claudia Polo, se non sbaglio, Modi. Sì, era un po' per stimolare il dibattito. Secondo me dice delle cose interessanti, altre sono un po' buttate là. Alcune un po' vaghe, sì. Quest'ultimo paragrafo è stato un po' pro piattaforme tecnologiche per la didattica a distanza, mi pare di aver capito. Ma che, ma le life skills se vanno tutte così? What is this life skills? Excuse me. Vabbè, sorvoliamo. No, però vabbè, tipo la scuola come contesto con anche dentro del simbolico mi piaceva molto come lettura, forse sarà la mia deformazione antropologica alla base. Ti conosciamo troppo bene ormai, Modi. No, non so se Poli ci vuole confermare quanto letto. Quanto è stato letto? No, possiamo anche continuare a chiacchierare liberamente come prima sugli spunti che ci hanno dato le nostre conoscenze al telefono. Sì, l'ultimo punto era un po' brividino. Sì, io devo scusare, poi effettivamente non ho capito, più che altro l'ultimo punto non ho capito, quindi se qualcuno volesse anche spiegare a me e alle numerosissime entità all'ascolto, tra l'altro. Invitiamo chi avesse capito a mandarci una mail a frittole@gattini.ninja. Esatto. Esatto, era in realtà un modo per farci scrivere, visto che nessuno ci ha scritto, a parte il buon Camicia. E va bene, no, una puntata veramente interessante, ricca di contenuti, ricca di spunti, ricca anche d'angosce, perché i lati positivi di tutta questa cosa dove stanno Modi, diccelo tu, che hai voluto tanto fare. Sono finiti, no, boh, io non, cioè, a parte il vedere la capacità dell'insegnante di sperimentarsi, degli alunni di adeguarsi un po' alle difficoltà, a parte il constatare questo, cioè riuscire comunque a trovare in qualche modo una strategia per continuare a fare ciò che si sarebbe fatto, non vedo molti altri lati positivi in ciò che è stato e in ciò che probabilmente sarà, anzi. Cioè. Io poi volevo anche sottolineare, diciamo, l'incongruenza di quest'ultimo pezzo, di questo paragrafo della Policon, si è fissato. No, non era importante, forse non dovevo fartelo leggere. Secondo me è molto importante, diciamo, riguardo alle telefonate che abbiamo appena avuto da tutti gli insegnanti, diciamo, dall'infanzia ai superiori, appunto, in cui dice che la didattica a distanza, nonostante, diciamo, avesse fatto emergere le diseguaglianze, qui sono elencate e sono anche poche, diciamo, non sono tutte. Dice tra l'altro che ha saputo tenere insieme il tessuto sociale degli studenti e delle famiglie, quindi, e che ne ha di conseguenza saputo leggere la complessità. Ora, magari questo era veramente, diciamo, secondo me interessante come dibattito, ecco, anche come campo. Diciamo, nonostante tutto quello che ci hanno detto per ora anche Roberto, l'ultima telefonata che abbiamo avuto. Ma scriveteci se avete da dire qualcosa. Ti stiamo un po' boicottando, non so come risponderti. Va bene, stiamo arrivando un po' alla fine della serata, vero? No, probabilmente c'è stanchezza in giro. Sì, io non so più cosa dire. Probabilmente prossima puntata chiameremo Claudia Poli e ci faremo spiegare. Non sappiamo dove neanche chi è in realtà Claudia Poli. Ci informeremo Claudia Poli e ti telefoneremo. No, però forse un aspetto positivo di tutto questo. Ah, vai, cioè, la nostra Poli. Catalizzare il senso tragico che c'è nel mondo, almeno delle istruzioni di cui abbiamo parlato fino ad ora. Secondo me in qualcuna di noi la voglia e forse anche la spinta a darsi all'insegnamento nelle scuole libertarie si è svegliata in un pochi. Oh, devo dire, un applauso a voi, veramente l'ha trovata. Che ha ridestato i nostri animi dormienti. Davvero. È un dirigente scolastico, Claudio Poli. Ah. In provincia di Modena. Ok. Ciao casa. Quindi insomma, lui tira Claudia tira l'acqua al suo mulino, ma giustamente Poli ci dice che, anche ascoltando le testimonianze delle nostre telefonate, chi stava dentro questo modello di scuola già un po' a fatica, ora forse troverà il modo, per sua volontà o meno, di tirarsene fuori e continuare a fare qualcosa, sempre nell'ambito dell'educazione, ma magari in maniera alternativa, in maniera, chi lo sa, autogestita, chi lo sa, libertaria. Noi lo sappiamo, no? L'autogestione fa un casino. Soprattutto, sì. Si è mescolata al virus. Si è mescolata al virus. Ma quindi è colpa del virus alla fine? Fondamentalmente sì, deve essere un'entità non definibile. Comunque è stata e sta diventando comunque, no, una puntata molto interessante, penso, per aprire diciamo un po', diciamo, l'ispirazione. Sta per essere stata ormai. Sta per essere stata, se sì. Continuiamo a dire cazzate. Mandaci un pezzo, va. Dai, mando un pezzo. Proviamo a cercare l'ultimo collegamento. Proviamo. Nel frattempo. Va bene. Guarda qua, non vedo l'ora che sia università, volti diversi, grandi discorsi, e poi ti trovi già là. Tanto vedrete, con noi il mondo cambierà, sì, ma l'hai vista, chi è quella tipa là? Facce sconvolte, pianti e rivolte, domani poi si vedrà. Ma chi mi uccide? Dimmi cosa c'è da fare per domani, l'interrogazione. Sera da me non ci sono i miei, oh, ma com'è che quest'ora non passa mai? La campanella è la cosa più bella che fuori ci porterà. L'autogestione tranquilli che ci sarà, certi argomenti richiedono serietà. Giovani attivi dei collettivi per non lasciarsi mai. Ma che velocità! Dimmi cosa c'è da fare per domani. Non serve, che male fa, sì, ma se solo potessi tornare là, un'ora sola in quella scuola, sai quanto pagherei? Ma che velocità! Dimmi cosa c'è da fare per domani, l'interrogazione, un altro compito, dai, dettami questa versione. Rieccoci, il nostro ultimo contatto non ci ha risposto, ma me l'aveva un po' predetto. E quindi. Al contrario di noi, lui è a cena. Giustamente. Ah, no, con la mascherina. Sì. Ritorniamo su Radio Aperitivo, questa è sempre Radio Womba. Gli studios di Frittola in compagnia stasera, quasi la fine, di Charles Mingus. Quanto sappiamo cazzeggiare bene. Sì, siete veramente eccellenti, eccellenti. Ci vuole anche un po' questo, ci vuole la battaglia, ci vuole la serietà, ci vuole anche il fatto che tra poco è relax, ragazzi, siamo un po' stremati come tutti quanti a fine di questa trasmissione, penso. Comunque volevo fare un appello a chi ci ha ascoltato, chi ci ascolterà, di mandarci esperienze, contributi su questo tema. Anzi, una cosa che mi incuriosiva molto è degli sgami degli studenti, ad esempio bigliettini nell'astuccio per un compito in classe, cosa si fa nella DAD, come non stai a lezione, come copi, come allora, io avevo letto un articolo, non ve lo sto a leggere ora, però allora, da una parte puoi fare finta di bloccarti, cioè per cui c'hai la connessione, connessione che va un po' male, fai finta di bloccarti, di essere scattoso e ti blocchi esattamente guardando il muro coi bigliettini e insomma copi bloccando. Sì, perché devi mantenere comunque la videocamera accesa e non è che puoi tenere gli occhi fissi da qualche parte, però certo. Se ti blocchi, fai finta di bloccarti, devi essere un po' bravo, ci vuole un po' di allenamento. Bisogna fare le prove, esatto, assolutamente. Di teatro quasi. Ho sentito questo. Poi vabbè, ci sono mille sgami per farsi un video e metterlo come sfondo sulla propria videochiamata. Per cui fondamentalmente quando sei lì in chat, mandi in videochiamata, mandi il tuo video e te ti levi semplicemente dalle palle. Questo quando c'è l'obbligo di videocamera accesa. Sì. O sì, se no sì, fai sì. Come ci raccontava Pietro, che accendi e torni a letto quando non c'è la videocamera, per esempio. Altrimenti, un altro modo geniale che avevo letto per copiare è fondamentalmente tenere le cuffie Bluetooth collegate a un altro dispositivo, al quale qualcuno è collegato e può fornirti delle risposte e tu con questo escamotage fai finta di essere collegato, sei collegato a un altro dispositivo, però perché non a quello del professore, sei in contemporanea sia a lezione sia no, cioè sia sì. Interrogato sì, sia se, no. se sei interrogato fai finta di essere interrogato con le cuffie, in verità quelle cuffie vanno da un'altra parte e c'è qualcuno che ti sta suggerendo. È geniale. Un metodo complesso tra i metodi dello sgamo, immagino. Sì, abbia altro che appunto fotocopie rimpicciolite o non lo so. Anni e anni di evoluzione cognitiva. Quello del banco dietro che ti suggerisce qualcosa e tu capisci male, quindi dici un sacco di sciocchezze. Non c'è neanche il prof che va al bagno. E per chi non l'avesse capito, reverendo sta elencando i lati negativi di questo Covid e di questa DAD. Ah, negativi? Pensavo no, da parte questa è la insegnanti. Capacità di resilienza che leggevamo prima, secondo me. Molto importante per quanto mi riguarda. E invece no, a proposito invece delle scuole più piccole, leggevo anche un tempo fa un articolo che raccontava un po' come l'hanno preso i bambini più piccoli, tipo delle elementari. C'era un bambino che chiede alla mamma, però tutto ciò indirettamente la maestra lo sentiva, se poteva silenziare la maestra e parlare col compagno di classe al computer, però ovviamente no. Questo è proprio per la difficoltà di capire la tecnologia tramite. Terribile. Per i piccoli. Sì, non puoi parlare col tuo compagno di banco, proprio senza che la maestra ti senta, anzi forse non puoi parlarci proprio. Questo l'aveva domandato il bambino alla maestra? No, la mamma. La mamma. Mamma, per favore, posso poi abbassare la voce della maestra? Io parlo con il mio amico. Quindi anche tutti i bigliettini, ti vuoi fidanzare con me? Metti una X. Vabbè, te sei già oltre, Poli. È finita. Sto subito alle storie sentimentali. Beh sì, andare a sperare nella campanella ricreazione per vedere quello dell'altra classe, che buona, non li vedi più quelli dell'altra classe. Com'è l'altra classe? È su Zoom o su Meet o boh. Ma credo che le generazioni più giovani stiano molto di più sui social. Questo è vero, forse parliamo di scuole di altri tempi, sì, già noi. Sì, ragazzi. Quindi c'è Instagram di quello dell'altra classe e chi se ne frega del cortile della scuola, dici? Sì, Instagram o altre mille app che ti mettono in contatto. Sono un po' vecchia, mi sa. Vabbè, comunque oggi ero a fare aiuto compiti, che da poco ho iniziato questa attività con un bimbo di 8 anni e una bimba di 5. Face to face però. Face to face, sì, tipo babysitting, però facevamo i compiti che le maestre gli hanno dato ovviamente online, quindi hanno un'applicazione ai genitori in cui hanno le consegne dei compiti e loro tipo 3 volte a settimana devono fare queste cose con dei video, delle robe. E anche appunto questo bimbo delle elementari aveva soltanto 2-3 ore di lezione frontale al computer, per fortuna, e poi altre cosine. Quindi vabbè, poi queste cose sono state sperimentate in maniera diversa a seconda delle scuole, a seconda dei professori. Penso che ognuno abbia fatto un po' a modo suo, nonostante delle direttive magari dall'alto. È l'arte dell'arrangiarsi, la conosciamo bene. La conosciamo bene. E... ah, io volevo anche mettere in mente una cosa. A proposito dell'incognita per settembre, domani a Firenze, ma penso anche in altre città, ci sarà un'assemblea. Domani mattina alle 10:30 in Piazza della Costa su un'assemblea pubblica per vedere un po' come riaprire le scuole a settembre, in che modalità. Ci sono già state manifestazioni nelle settimane passate su questo tema, penso stiano un po' andando avanti e per fortuna adesso ci si può quantomeno vedere a distanza, ma vedere all'aperto. C'è anche dell'auto-organizzazione dal basso che continua. Mi era piaciuta la foto che ci avevi fatto vedere prima, modi dei bimbi in Cina con col plexiglass. Allora, sì, un articolo di Internazionale, anche perché appunto cioè, questa situazione non è soltanto italiana, ma è più o meno di tutto il mondo, di molti paesi, e quindi magari la prossima volta vediamo come è stata affrontata in maniera diversa a seconda dei contesti. Perché no, perché no? Io se fossi nel governo italiano, perlomeno coloro che decidono, opterei per il pugno di ferro, perché non si sa mai. Io penso che ti voterei, reverendo. Sarei uno dei tuoi fermi sostenitori. Grazie. A livello mediatico. Puoi essere il mio social media manager se vuoi. Il tuo braccio sinistro. Comunque. Va bene, no, abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora, sì. E direi di... Sì, sicuro che questa non sarà la prima puntata, diciamo, che tratterà della scuola e... No, più che altro ci sono 1000 temi connessi al mega mondo scuola. Cioè, diciamo, prima la precarietà, l'uso delle tecnologie in questo caso, e 1000 altri ancora. Quindi, boh, aiutateci a sviscerarli in futuro, ascoltatori e ascoltatrici. E che dite, andiamo a cena? Dai, mandaci il pezzo finale e buon appetito. Va bene, dobbiamo salutare tutti quanti a questo punto, penso, in maniera molto nostalgica. Sì, assolutamente. Prima di tutto quelli che non sono qua con noi, cioè Beppi e Dottor Io, Marina. Sì. Doctor ci ha paccato così, perché doveva venire. Ma io non lo so, vedo Doctor una persona molto integerrima e responsabile, perché ha avuto sì, perché non lo conosci bene. Qualche impegno. Comunque, numerosissime entità all'ascolto, vi salutiamo questa bellissima puntata che ha aperto il vaso di Pandora della scuola. Assolutamente. È stato bellissimo. È stato molto bello essere in vostra compagnia su questa nave a frittole Modi, con la nostra amica Poli e il reverendo. Ciao Palmiro. Ciao Palmiro. Sexy. Ciao. Voce. Ciao. Ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie.